Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Orca la miseria, questa volta mi sono incartata sul nome di Daniele. Oh sì, Se ci sta già ascoltando, mi prenderà molto in giro dopo. Rifacciamolo bene. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ovviamente siamo in diretta, ovviamente i vostri messaggi ci possono arrivare al 349-238-6666, sia per gli SMS che per i WhatsApp. Poi c'è sempre il mio account di Twitter, che è @MartaCagnola, e anche qui potete scrivermi tutto ciò che volete, i temi della prima ora. Allora, l'appuntamento con il gastronauta, con lui festeggeremo il carnevale, un po' in anticipo ma ci prepariamo. Le tecnologie con Enrico Pagliarini, parliamo di informazione in rete. Tutti i film in sala nel weekend, ma non solo, perché partiamo con un appuntamento che si sta ormai davvero avvicinando. Cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è tua, se di colpo fa fatica, mentre tutto fugge via, a noi bastava solo l'amore, il resto ci poteva mancare, e ridere, scherzare, poi svenire. E ci siamo quasi, manca pochissimo al Festival di Sanremo. Beh, questa volta abbiamo scelto Cieli Immensi di Patti Pravo, che è stato il premio della critica Mia Martini dell'anno scorso, ma soprattutto una delle canzoni che abbiamo amato di più, vabbè, dico la verità, una delle canzoni che ho amato di più io, ma non del Sanremo dell'anno scorso, proprio tutto l'anno scorso, innamorata di questo pezzo di Patti Pravo. Chissà se ci sono dei pezzi altrettanto belli in questo Sanremo del 2017, che parte veramente tra pochissimo, martedì sera siamo tutti lì pronti. Allora, per sapere a che punto siamo, che cosa sappiamo, che cosa ancora c'è da scoprire di questo Sanremo veramente a pochissimi giorni, un po' le istruzioni per l'uso, ci colleghiamo con una persona che è un'autrice TV, un critico musicale, ma soprattutto una grande amica del sabato del villaggio, Chiara Di Giambattista. Ciao Chiara! Ciao Marta, ciao a tutti! Allora Chiara, a che punto siamo? Cosa sappiamo? Come dobbiamo prepararci per martedì? Allora, intanto già sappiamo un bel po' di cose, ma secondo me qualche altra sorpresina vedrai che uscirà fuori. Ah, allora, vedi? Secondo me qualcosina vedrai che Carlo Conti dal suo cilindro tirerà fuori. Allora, innanzitutto Tiziano Ferro ha sciolto un po' il mistero che era intorno un po' alla sua partecipazione. Sapevamo che sarebbe salito sul palco, salirà sul palco insieme a Carmen Consoli, con cui canterà Il Conforto, questo pezzo straordinario, bellissimo. Però ha annunciato dalla sua pagina Facebook che toccherà a lui, in maniera insomma assolutamente, io credo sarà un momento molto bello, fare l'omaggio a Luigi Tenco, di cui insomma ricorre in questi giorni il cinquantenario della scomparsa. Quindi lui ha già dichiarato che canterà Mi sono innamorato di te, e non so tu, ma io ho provato a immaginarmela cantata con la voce di Tiziano Ferro e secondo me sarà una cosa meravigliosa. Ho già comprato molti fazzoletti di carta io per quel momento lì. Già so, sì. Allora, poi naturalmente Carlo Conti ha detto che ci sarà questa copertina di Maurizio Crozza, che sarà in giro per Sanremo chissà dov'è, chiuso da qualche parte, che ogni sera farà questo, ci darà questa pillola di comicità, insomma come è nella grande tradizione del festival, il comico che sarà un po' il principe di queste serate. Per quanto riguarda la musica, i nomi sono tantissimi già naturalmente salirà sul palco Giorgia, che ricordiamolo è anche autrice di uno dei brani dei Big in Gara, cioè quello di Sergio Silvestre, che si intitola Con te, Ci sarà Mika, che amiamo moltissimo e che abbiamo scoperto anche essere un grande showman, non solo come aveva fatto già a X Factor, ma insomma in questo, nel suo programma di Rai 2, che ha avuto grande successo, ci ha dimostrato che è veramente un grande istrione. Anzi, qualcuno già diceva magari Sanremo dell'anno prossimo potrebbe presentarlo lui, perché guarda, ormai è uno... Guarda, mi dovessi firma, perché io firmerei, ecco, quasi subito. Sì, sì, sì, sono d'accordo. Perché oltretutto è un grande esperto di musica, grande ironia, bella presenza, perché diciamo anche bella presenza che non guasta, insomma ci è piaciuto molto, grande, anche grande cuore e sentimento, ha un modo di raccontare la musica che a me piace molto. E, altri ospiti, Zucchero Fornaciari, che arriva su quel palco dell'Ariston, insomma, da grande super ospite, e Alvaro Soler saranno entrambi per la serata di sabato. Salirà sul palco anche una delle rivelazioni musicali degli ultimi mesi, che è LP, questa cantautrice pazzesca, Laura Pergolizzi, per gli amici, all'anagrafe, e secondo me pregherà un po' il pubblico, perché lei ha questa sua caratterizzazione di questo fischio, no? Che sì, è la, sì, sì. Esatto, che è un po' il suo marchio di fabbrica, ma mi è capitato di vederla live e vi devo dire che è assolutamente magnetica, quindi secondo me ho grandi aspettative su di lei. Secondo me lei e un paio di altri nomi sono nomi che a tanti non dicono nulla, ma le prime note della canzone tutti diranno: ah, questa! Ma è lei! Ma sì, io sono sicura che tu parli naturalmente dei Biffy Clyro, ovviamente, questo pezzo pazzesco Rearrange, che è un pezzo che ultimamente è in cima a tutte le classifiche, ma anche di Dragon Ball Man, perché la sua Human è un pezzo che veramente è stato uno dei veri tormentoni degli ultimi mesi. Poi lui con questa voce stranissima, particolarissima, secondo me saranno anche, come hai ragione tu, saranno sul palco e diranno, e tutti diranno: ah, ma loro finalmente diamo un volto a queste canzoni di grandissimo successo. Dopodiché tornerà sul palco dell'Ariston, e devo dire, io c'ero quando lui ci è andato sulla prima volta, Ricky Martin. Ah, perché Ricky Martin, sì, andò al festival del 2001, il festival di Raffaella Carrà, e devo dire venne giù il teatro, io me lo ricordo perfettamente, quando iniziò a ballare, ragazzi, era veramente in una forma smagliante. Vediamo cosa ci riserverà, perché Ricky Martin, insomma, è comunque sempre stato uno che poi con il ritmo e con la musica poi ha saputo sempre travolgere tutti. Chissà se canta Maria a Maria De Filippi. Io spero di sì, perché sarebbe veramente un gran momento. Guarda, te lo stavo per dire, non lo volevo, mi pareva brutto dirlo, però effettivamente sì, è quello che speriamo, sì, tutti. Sì. Altro, insomma, per la gioia di noi signore, soprattutto salirà sul palco Keanu Reeves, diciamocelo, sì, quando sì, è stato annunciato noi siamo state tutte molto contente, e effettivamente, insomma, spendiamo delle sue lampre, mettiamola così, ecco, che non ci deluda, che non sia invecchiato, perché sennò ci rimango male. Esatto, ce lo aspettiamo in grande forma, ma io già lo so che lui sta lì che fa un po' di palestra, sta lì che si sta preparando per noi, perché lo sa che non deve deludere le fan italiane che, certo, sono lì che lo aspettano a braccia aperte. Altro grande nome di questo festival tra gli ospiti è Robbie Williams. Anche lui avrà, insomma, questo grande tour che lo porterà in giro per il mondo, passerà anche per l'Italia. E Robbie Williams, devo dire, l'ultimo disco è stato sicuramente un album che sta facendo parlare, però insomma anche da Robbie ci aspettiamo moltissimo. E questi sono, diciamo, gli ospiti musicali. Ecco, ma adesso ti devo chiedere, perché tutti mi fanno la domanda, ma le vallette? Perché cosa facciamo? Sì, abbiamo delle vallette, delle ospiti, ce le abbiamo? Allora, Carlo quest'anno ha un po' mescolato le carte, secondo me, cioè ci ha un po' fatto un po' il gioco delle tre carte, come si dice, nel senso che non c'è il famoso gioco della valletta more e la valletta bionda dei tempi d'oro di Pippo Baudo e anche di quelli poi successivi, ma insomma di quei tempi lì, è stato un po' sconvolto, nel senso che al momento di presenze fisse sul palco si parla soltanto di Carlo e Maria, ma cominciano a uscire fuori dei nomi. È stata annunciata la presenza, per esempio, di Marika Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, che naturalmente, facendo l'indossatrice, sicuramente porterà glamour e bellezza sul palco dell'Ariston, ma non si sa quando, come e in quale veste. Notizia di poche ore fa, insomma di ieri, è che anche Diletta Leotta, la conduttrice di Sky Sport, è stata reclutata per salire sul palco dell'Ariston. Altri nomi, sì, ci sarà Paola Cortellesi, di altre donne, ma insomma di vallette, proprio nel vero senso della parola, ancora non se ne parla. Un altro nome che non può mancare dal palco dell'Ariston è il nostro meraviglioso maestro Beppe Vessicchio. Diciamocelo, l'anno scorso è stato il casus uscite Vessicchio, l'hashtag, no? Che sì, se qualcuno se lo ricorda, era scomparso, non si sa che fine avesse fatto, e invece poi è uscito fuori. Quest'anno lui ha dato l'annuncio: no, io non dirigerò nessuno dei cantanti in gara. Tragedia, mozioni popolari, e a un certo punto Carlo Conti ha detto: no, aspettate, lo invito io, e quindi lui ha già promesso che sarà sul palco dell'Ariston, anzi più che sul palco dell'Ariston, sicuramente ci salirà, insomma sarà seduto in prima fila nella serata di venerdì. Lui sarà lì in quella settimana perché ha scritto questo libro dove racconta che la musica fa crescere i pomodori, insomma è una teoria piuttosto bizzarra ma molto simpatica, e quindi occhio perché si aggirerà parecchio per le strade di Sanremo, quindi per chi sarà lì guardatevi intorno perché da un angolo potrebbe spuntare la barba di Vessicchio. Chiara, ti posso far sbilanciare? Perché noi abbiamo già sentito le canzoni, abbiamo parlato anche al Sabato del Villaggio, ce ne aveva parlato anche il nostro comune amico Paolo Giordano, ma secondo te, così che anche tu hai un po' il polso degli addetti ai lavori, chi sono i favoriti ora come ora? Allora, io se ti dovessi dare, posso provare a darti un mio podio? Sì, che sì, sì, sono contenta di sentirlo. È un po' il mio podio, diciamo quello che poi potrebbe anche ipoteticamente essere quello definitivo. Allora, naturalmente non ti dico nulla di nuovo se ti dico che al primo posto vedrei Fiorella Mannoia, perché la sua interpretazione è, devo dire, magistrale. Lei ha sempre questo modo pazzesco di interpretare, e il suo testo cantato proprio da lei è sicuramente qualcosa che assume ancora più valore e più bellezza. Il secondo posto io direi che potrebbe essere occupato dalla signorina Elodie. Elodie, anche a me convince questa signorina Elodie. Il suo pezzo è veramente un pezzo sorprendente, nel senso che da una parte il suo pezzo è un grande classico della tradizione sanremese, parla d'amore, credo che sia la canzone in cui viene più ripetuta più volte la parola amore, ma dall'altra parte il pezzo è stato scritto per lei da Emma, e sicuramente c'è un po' di graffio moderno, ma è un pezzo che le sta molto bene addosso, e lei lo interpreta, devo dire, con una voce straordinaria. Al terzo posto io metterei Ermal Meta. Ermal Meta, secondo me, ha il testo più bello di tutto il festival, sì, nel senso che è una canzone che lui dedica a sua madre, si intitola Vietato morire, ed è un pezzo dove si parla anche di violenza minorile, di violenza sulle donne, di realtà difficili, dove lui racconta anche di, insomma, sicuramente anche qualcosa di se stesso, molto profondo e molto privato, e lo racconta, devo dire, con una, da una parte lucidità, ma con un sentimento che però non cade nell'essere ruffiano, nell'intenerire per forza, è una cosa che arriva dritta al cuore. Tra gli altri che a me piacciono molto c'è sicuramente il pezzo di Marco Masini. Oh, che bello! Oh, io sono una grande fan di questo pezzo di Marco Masini. E di Marta, che siamo d'accordo. Allora, il pezzo di Marco Masini, che è scritto da anche tra gli altri da Zibba, secondo me ci darà delle grandi sorprese, perché è anche un Marco Masini che è uno che non ti aspetti. Poi, diciamolo, i due grandi leoni, Gigi D'Alessio e Albano, che gli vuoi dire? Niente. Secondo me il pezzo di Albano potrebbe veramente buttare giù l'Ariston. Perché secondo me sì, attenzione a quelli delle prime file, perché verranno spettinati dalla voce, esatto, di Albano. Io ve lo dico, perché al primo acuto le signore in prima fila non le vedo messe bene, perché no, Albano è pazzesco. Il pezzo di Gigi D'Alessio rientra nella grande tradizione della musica napoletana, della canzone, e anche lui fa un pezzo dedicato a sua mamma, alla sua mamma, ed è racconta una mamma che non c'è più, con grande nostalgia, con grande sentimento, e però devo dire, alcuni potrebbero storcere il naso, ma io devo dire che a Gigi D'Alessio gli si vuol bene. E dopo di quello io ti posso dire che forse, guarda, c'è un Francesco Gabbani che è stato neopromosso dai giovani dell'anno scorso, che porta un pezzo sicuramente furbacchione, ed sì, è un pezzo che sarà un bel tormentone, secondo concordo, me, concordo, sì, perché è uno di quei pezzi che io nei giorni poi successivi all'ascolto ricanticchiavo nelle orecchie. E poi c'è anche il pezzo di Paola Turci, perché comunque Paola Turci ha fatto un pezzo, una canzone di grande consapevolezza, una grande presa di coscienza da parte di una donna, e l'ho trovata molto bella. Insomma, però devo dire, le canzoni ce ne sono alcune veramente di grande qualità, anche Fabrizio Moro, il pezzo di Fabrizio Moro, insomma gli addetti ai lavori lo ascolteranno con grande attenzione. Guarda, non mi voglio sbilanciare di più, perché poi gli altri sono dei pezzi che secondo me meritano più di un ascolto, quindi non vedo l'ora poi di vederli su quel palco. E anche, diciamocelo, quello è un palco che fa un po' paura. Nel senso che sì. Perché anche quando vai lì dopo tanti anni di esperienza, anche i leoni, quelli più, diciamo, più navigati, hanno un po' di tremarella alle gambe. Però nello stesso tempo mi aspetto delle interpretazioni sicuramente che potrebbero anche un po' ribaltare questo primo giudizio che abbiamo dato noi al primo ascolto, perché magari invece un pezzo, alcuni pezzi meritano di essere ascoltati più di una volta per essere compresi. Io direi che secondo me tu, insomma, noi ci vedremo lì, no? Noi ci vediamo lì e vediamo, le vediamo sul palco, vediamo come si comportano già in prova, e così avremo anche, insomma, l'ultima prova prima di sentirle tutti insieme, anche insieme al pubblico martedì sera, e vedere quali saranno i primi verdetti. Naturalmente ci aspettiamo anche molto dai giovani, perché i ragazzi di quest'anno anche ci sono dei bei talenti. Su questo bisogna dare grande merito a Carlo Conti, che li ha riportati in orari dove c'è il grandissimo pubblico davanti alla televisione, e quindi in questo bisogna dirgli che è stato veramente bravo, oltre che per sulle altre cose, insomma, questo non ce lo dimentichiamo. Allora io ringrazio e saluto Chiara Di Giambattista, chiocciola Chiara Di Giamba 1 col numero per seguirla su Twitter anche in questi giorni di Sanremo. Grazie Chiara, prestissimo allora. Grazie Marta, grazie a tutti, ci vediamo a Sanremo. Ciao. Un abbraccio, a presto. Il sabato del villaggio. E durante questi istanti della viabilità mi sono letta anche un po' di vostri messaggi al 349-238-6666, sia SMS che WhatsApp. Allora, messaggi con le cifre di Sanremo, quanto guadagna Carlo Conti, quanto guadagnano gli ospiti, non sono vere. Cioè, abbiamo già spiegato che Carlo Conti non prende un compenso per il Festival di Sanremo, che ha un contratto quadro su tutte le altre trasmissioni. Le cifre sugli ospiti sono assolutamente ignote, non sono vere le cifre, quindi non so come dire. Ne parleremo anche in RadioTube, facciamo così, ne parliamo in RadioTube, perché secondo me è un argomento che riguarda un po' l'informazione in rete, quindi vi do l'appuntamento per questo argomento più tardi a RadioTube, se Daniele Bellasio è d'accordo. Musicista di professione che scrive un messaggio molto interessante, Andrea da Napoli. Sì, è molto interessante il problema della rivalutazione della musica nelle scuole, riscoperta delle radici della musica italiana. Mi piacerebbe parlarne, prima o poi mi piacerebbe parlarne. Ovviamente noi abbiamo sempre tempo per, così, per le cose di maggior tendenza, di maggior presa, tutti gli argomenti molto pop, insomma è sabato pomeriggio, però sarebbe bello fare anche delle riflessioni del genere. Ah, c'è qualcuno che chiede Bello Figo. Allora, Bello Figo dubito che possa arrivare a Sanremo, comunque chi lo sa, insomma annunceranno degli altri ospiti lunedì, sono pronta a tutto. Mauro da Brescia chiede se abbiamo già ascoltato le canzoni. Sì, i giornalisti hanno già sentito le canzoni, le hanno sentite il 20 di gennaio tutte insieme, e poi adesso in questo periodo molti hanno già visto le prove, vedremo le prove a Sanremo prima di martedì, insomma è normale, perché per parlarne non è giusto averle sentite una volta sola direttamente lì, insomma dobbiamo sentirle tutte molto prima. Adesso però è il momento del nostro gastronauta e io voglio introdurlo così. Come ogni anno non vedo l'ora che sia carnevale per poter mettere il rondò veneziano in trasmissione. Oh, che soddisfazione, il rondò veneziano come tanti anni fa. Spero di aver strappato un sorriso anche al nostro Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao. Da quanti anni c'era il rondò veneziano? Il rondò veneziano e il carnevale portano allegria, ovviamente, ma portano allegria ovunque. Nelle piazze, ma anche in cucina, ma anche a tavola portano grandissime allegrie. Sì, come si spiega, diciamo, questo arrivo di dolci, di zucchero, di tutto quello che è, come posso dire, piacevole, perché il carnevale deve essere una festa e quindi deve essere così. E allora in tutta Italia, diciamo che esplodono nelle pasticcerie un po' ovunque

odio il pancotto. Mia nonna quando era malata, il pancotto sempre. Pancotto e riso col prezzemolo sono i due piatti che non posso mangiare. Ma magari lo proverò lì per riconciliarmi con il piatto, il pancotto. Sono due piatti da malato, in effetti. Come, sì, come il riso al latte che io tanto adoro. Sono veramente piatti da malati. È no, vero. Dai, allora però andrò a Rovello a provare questo pancotto per riconciliarmi con le memorie. Sono piatti ecco dell'infanzia. Il cibo è soprattutto memoria, quindi secondo me è importante questo, ogni tanto invece di andare a gustare la creatività, a gustare la memoria, forse si vive ancora meglio. Sì, è vero. Davide, grazie per questa indicazione, per questa chicca. Il prossimo sabato io sono a Sanremo. Se ti va, parliamo un po' di Sanremo, non ti faccio cantare. Magari no, no, va bene, guarda, io sono stonato come un asino, mi dicono tutti, quindi sicuramente però Sanremo lo seguo, ecco. E quindi sicuramente farò tutto su Sanremo. Dai, anche perché fantastico. Sanremo c'è una chicca di un prodotto di cui ti parlerò che è unico. Ah, fantastico, quindi al prossimo sabato noi saremo a Sanremo e anche Davide Paolini ci farà scoprire sempre qualcosa di nuovo. Grazie Davide, al prossimo sabato. Al prossimo, ciao. Noi a tra poco ancora. Il sabato del villaggio. Un'altra trasmissione che passa da Rondò Veneziano a Joe Jackson, Sunday Papers, perché tra qualche istante parliamo di informazione. Ma io sto ridendo perché mi è appena arrivato un tweet. Evidentemente Carlo Gabardini di Si Può Fare ha lasciato aperto il suo account di Twitter in studio e Renato Cifarelli dei Conti della Belva voleva fargli lo scherzone e twittare con l'account di Carlo. È il momento che io lo confessi, sono l'amante segreto di Marta Cagnola. Sarebbe stato molto carino, Renato, ci saremmo divertiti. Ma siamo dei buontemponi a Radio 24, siamo dei buontemponi. E a proposito di buontemponi, da qualche parte nel mondo, ma collegato, chissà dov'è, abbiamo Enrico Pagliarini. Ciao Enrico! Ciao, ma io non sono un buon tempone. Ma sì, che sei un po' buon tempone anche tu, dai. Solo fuori dal microfono, senza microfono. Senza microfono, sì, no, al microfono è molto più serio. Allora, sì. Enrico, Sunday Papers, questa era una vecchia canzone che parlava di giornali, però insomma non è più così, non c'è più il Sunday Paper come un tempo. Ci sono tante altre cose, cioè non c'è solo quello, diciamo. Sì, allora è un mondo in evoluzione, non sappiamo ancora dove andrà a finire. Ci sono forse più certezze nel mondo video che nel mondo dell'informazione classica, però c'è forse un punto che dovremmo, non so se riscoprire, comunque dovremmo quasi tutti noi chiarirci un po' le idee. Insomma, se vogliamo una buona informazione, poi sul fatto che ci sia buona informazione potremmo aprire un capitolo, ma insomma c'è anche buona informazione. Beh, la buona informazione si deve pagare, l'approfondimento costa soldi e quindi si deve pagare. È impensabile che gli approfondimenti anche nel futuro siano gratuiti e quindi tutti gli editori sono alla ricerca di modelli di business, insomma sappiamo tutti il momento che sta passando l'editoria in tutto il mondo, non solo in Italia. E quindi la domanda è, se noi vogliamo uscire dal flusso di notizie gratuite dove vediamo anche un sacco di pubblicità e a volte c'è veramente troppa pubblicità, caso che i software che bloccano la pubblicità, i famosi ad blocker, crescano di numero ogni mese. Ci sono dei numeri veramente incredibili. Quindi c'è questa lotta, l'informazione che diventa gratuita sul web, la pubblicità che deve sostenere l'informazione, c'è sempre più pubblicità, ma i consumatori si vogliono difendere a questa troppa pubblicità. Allora l'alternativa è o andare in edicola a comprarsi il vecchio caro giornale di carta, che può avere ancora un senso in alcune situazioni. Sì, certo. Sì, ma io, che ne so, il Sunday, cioè alla domenica mattina uno potrebbe anche fare ancora questo. Però, insomma, sappiamo che le cose sono cambiate drasticamente, abbiamo a disposizione degli altri mezzi. E allora, quali sono le alternative? Allora, una alternativa molto semplice è fare un bel abbonamento ai servizi online degli editori. Ci sono, quasi tutti i grossi editori hanno delle proposte, molto spesso la proposta principale, poi ci sono varie derivazioni, è un'applicazione che noi possiamo consultare dove vediamo né più né meno i contenuti del giornale di carta, però digitale. Mm-hmm. Poi ci sono altre proposte, e qui veniamo insomma alle novità che il mercato sta cercando di proporre. Allora, una proposta che è stata creata da un consorzio di editori, quindi ci sono gli editori italiani che si sono messi insieme per fare Edicola Italiana. Certo. Allora, è vero che Edicola Italiana ultimamente si è specializzata soprattutto in abbonamenti, pacchetti per aziende che vogliono fornire quotidiani e informazioni ai propri dipendenti, ma attraverso l'app di Edicola Italiana si possono anche fare abbonamenti ai giornali che hanno aderito a questo consorzio. C'è una cosa interessante di Edicola Italiana, che si possono fare ricerche per tema attraverso tutti i quotidiani, tutti gli editori. Cioè se mi vuoi... interessa un argomento, io cerco l'argomento e so dove è apparso quel giorno. Esattamente. E tu ti puoi comprare l'edizione del quotidiano che parla di quell'argomento. Mm-hmm. E questa è sicuramente una cosa molto molto interessante. Non c'è ancora, purtroppo, ma ci si sta provando, poi uno dei problemi è mettere d'accordo tutto il sistema, a fare una sorta di Spotify delle notizie. Pago un abbonamento e passo da un editore all'altro, e io penso che questa sia una, non la soluzione, ma una delle soluzioni, cioè creare all'interno, ad esempio con Edicola Italiana potrebbe essere questo lo strumento, una sorta di abbonamento. All you can read. Esattamente. Ci sono alcune cose simili per i libri, ma non ancora per le notizie, o meglio, non ancora in Italia, perché se noi andiamo al di là dei confini, allora c'è un'azienda canadese che da una decina di, da più di, anzi forse quasi 20 anni, ha una soluzione che negli ultimi tempi si è, insomma, è diventata molto bella, molto completa, si chiama Press Reader. Allora, Press Reader ha più di 5.000 giornali, e uno potrebbe dire, vabbè, ma che cosa me ne faccio di 5.000 giornali? In effetti sono... Però questa è un'offerta mondiale. Sai che io lo uso, non sapevo che fosse canadese. Sì, canadese. Ah. Però tu usi sei abbonata o sei hai sottoscritto l'edizione gratuita? Allora, no, entrambe le cose. Nel senso che sono mi abbono ai vari giornali, se voglio leggere dei numeri di alcune riviste, cioè compro le varie copie. Però tramite le biblioteche lo posso usare anche come emeroteca. Esattamente. Però allora, vive da sola questa applicazione, si possono fare alcune cose. Allora, c'è un primo livello che è gratuito, c'è una selezione di notizie, oppure si possono vedere i quotidiani gratuiti, poi ci sono vari tipi di abbonamento. Aspetta, spieghiamo una cosa prima che qualcuno... È una cosa legalissima, eh? Sì, sono tutte cose legali. Siccome, magari, siccome poi in questi giorni sono uscite notizie, diciamo che sono cose legalissime che paghi regolarmente, ecco. Sì, sono tutte proposte in accordo con gli editori che percepiscono la propria percentuale. Ci sono delle proposte illegali, ma quasi tutti i mesi qualcuna di queste proposte viene fermata, bloccata. Anche appunto negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha bloccato alcuni siti illegali. No, qui stiamo parlando di cose gratuite, legali e a volte gratuite o comunque anche a pagamento. Allora, Press Reader ha questa opzione molto interessante, e anche questa potrebbe essere una delle evoluzioni, uno dei trend nel mondo delle notizie. Se uno dall'applicazione va sulla mappa, ci sono alcune cose che si chiamano hotspot, e ad esempio possono essere la lounge di un hotel, può essere la lounge di un aeroporto, può essere anche un bar, dove il gestore o del bar oppure dell'hotel ha deciso di offrire gratuitamente tutti i giornali che sono all'interno di Press Reader. Quindi, ad esempio, uno potrebbe guardare la mappa, vedere se c'è un hotspot vicino, certo, se è un aeroporto no, perché deve prendere l'aeroplano, però se fosse un hotel, uno di quei grandi hotel, potrebbe andare a prendersi un caffè al bar dell'hotel e leggersi i giornali, perché all'interno di queste aree questa applicazione si apre e quindi è come che tu pagassi l'abbonamento. Oppure, se tu sei un lettore e sei interessato anche ad altri giornali oltre magari al proprio giornale al quale uno è affezionato, potresti, insomma, è una buona idea pagare un abbonamento. Direi che gli abbonamenti partono da una trentina di dollari in su, perché ci sono varie versioni di abbonamenti. Poi ci possiamo aprire al mondo, ma qui veramente è un mondo vastissimo, degli aggregatori, ma nel 99% gli aggregatori sono aggregatori di notizie che si trovano sul web e sono gratuite. L'unica cosa che fanno gli aggregatori, alcuni le fanno molto bene, è che selezionano le notizie in base ai nostri interessi. Se noi siamo appassionati di sport, se siamo appassionati di tecnologia o di economia, noi mettiamo le nostre preferenze, questi aggregatori aggregano e selezionano. Quindi ci forniscono dei flussi di informazioni presi da vari siti in giro per il mondo, possiamo anche selezionarli per lingua, e ci offrono le informazioni in base ai nostri interessi. Come dire, ne se uno fosse appassionato di sport, la mattina si sveglia, sì, e legge tutte le notizie sportive. Sì, ne cito uno che fa un salto, perché molto spesso gli aggregatori sono aggregatori di notizie scritte sul web, quindi testi scritti. Ce n'è uno che ha qualche anno, ma se ne è parlato in questa settimana perché è stato acquisito da un'altra società, che, anzi, lo diciamo dopo il traffico magari. Fantastico, perché io adoro Enrico Pagliarini, che lui, oltre a parlare, anche se è in un luogo ignoto del mondo, ha davanti il clock di Radio 24 e sa quando dobbiamo lanciare il traffico. Ti leggo solo questo messaggio, Enrico, arrivato, sì, al 349-238-6666, di Anna, che dice: sono abbonata sia all'edizione cartacea che digitale del Sole 24 Ore, e dice: leggo il cartaceo e invece archivio in digitale. Perfetto. Ma soprattutto, sì, dice che il massimo sarebbe Barisoni e Pagliarini nella stessa trasmissione. Quindi devi ospitare Sebastiano in 2024 oppure andare tu a o Focus viceversa. Economia, sì, perché Anna ha questa richiesta di avervi insieme. Va bene, mandaci una mail con una richiesta, però non via SMS. Va bene, dai, traffico, e poi ci spieghi questa cosa dell'aggregatore tra poco. Sì. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. E rieccoci ancora insieme, Enrico. Allora, ci parlavi di aggregatore. Sì, è una buona soluzione. Allora, c'è questo aggregatore che si chiama WatchUp, quindi watch, guardare, e app, che aggrega canali televisivi di news, quindi canali che fanno notizie, e anche in questo caso possiamo selezionare canali che fanno solo notizie sportive, canali che fanno solo notizie economiche. Sono canali che arrivano da tutto il mondo, ce ne sono anche alcuni in lingua italiana, e quindi possiamo fare un mix, possiamo mettere assieme edizioni italiane, edizioni internazionali, edizioni di sport, insomma telegiornali, perché stiamo parlando di notizie, quindi sostanzialmente l'aggregazione viene fatta su questi video. Non esiste, almeno non ne ho notizia, non mi sembra che esista un aggregatore di notiziari o comunque di programmi radiofonici. Esistono degli aggregatori di podcast, però qui stiamo parlando di un aggregatore di flussi di notizie. Il podcast è una cosa un po' diversa, però possiamo anche trovare delle somiglianze. Comunque questo WatchUp ha 200 canali. Leggo che questo WatchUp è italiano come idea. Sì, è stato fondato da un italiano. Settimana è stata annunciata la vendita. È un ragazzo di Napoli che si chiama Adriano Farano, che se n'è andato nella Silicon Valley, ha fondato questa società nella Silicon Valley, e questa settimana un'altra società che è una sorta di aggregatore per i contenuti che noi abbiamo sul computer o comunque nella nostra rete di casa, sui nostri server, sui nostri NAS, che si chiama Plex, ha annunciato l'acquisizione, quindi nei prossimi mesi lavoreranno per mettere assieme queste due proposte. È un mondo che si sta trasformando molto velocemente e dicevo anche prima, non stiamo vedendo un orizzonte definito, vediamo tante possibilità, tante cose che stanno accadendo. Di certo, una delle soluzioni ai problemi che prima citavo è trovare un sistema per pagare l'informazione, pagare le notizie, soprattutto quelle approfondite che richiedono anche tempi e persone per essere prodotte. Pensiamo ai reportage, insomma, pensiamo a tutti gli altri approfondimenti. Anche gli approfondimenti del Sole 24 Ore sono approfondimenti che richiedono tempo, perché se uno si deve leggere le leggi, se uno deve parlare con gli esperti, non è un lavoro che si può fare in maniera molto veloce. Insomma, questo è un tema che conosciamo molto bene e che tutti gli editori sono al quale stanno lavorando per trovare soluzioni. Infatti diciamo che se avessimo adesso la soluzione avremmo risolto il problema dell'editoria non italiana, dicevamo, ma un po' in tutto il mondo, perché un po' in tutto il mondo ci si sta interrogando quale può essere il modello per sostenere un giornalismo di qualità, ma integrarlo con la rete che ormai ci ha dato l'abitudine ad avere informazioni gratuite e che però non sempre si possono, diciamo, mantenere, ecco. Eh sì, questo è un po' il problema. C'è chi dice che il futuro dell'informazione sarà una delle strade per sostenere l'informazione sarà il crowdfunding, cioè informazione sostenuta e pagata dagli utenti. Non so quanto questo possa essere realizzabile. Un'altra strada potrebbe essere quella di grandi fondazioni che sostengono l'informazione, però qui stiamo aprendo altri capitoli su cui si stanno cervellando centinaia, migliaia di esperti e ancora una soluzione non è stata provata perché, ripeto, il problema è un problema mondiale, a parte pochi grandi editori che comunque sono ancora anche loro alla ricerca di un equilibrio, dicevo pochi grandi editori che sono questi grandi brand internazionali che hanno una fortuna. La fortuna è di scrivere in lingua inglese, quindi di rivolgersi ad una platea che è sostanzialmente mondiale. Ha un mercato molto più ampio. Certo, se tu hai una fetta di mercato anche molto molto piccola, ma di un mercato che è gigantesco come quello mondiale, ovviamente insomma sei avvantaggiato. Un editore francese, un editore tedesco, un editore italiano ha ovviamente maggiori difficoltà. Fantastico. Allora, voglio un ultimo consiglio qui al Sabato del Villaggio da parte di Enrico Pagliarini, che è quello di 2024, quando, dove, come e perché. Abbiamo un fantastico podcast. Questa settimana abbiamo parlato di tantissime cose. Forse la più simpatica è simpatica però anche allarmante, cioè che cosa succede di tutti i dati che vengono generati dai giocattoli connessi. Ah, ok, molto molto molto interessante. Quindi, se l'avete ascoltato ieri sera, a posto. Se no c'è la app di Radio 24, la ascoltate, scaricate 2024 e magari già che ci siete anche il Sabato del Villaggio Radio Tube, così fate felice un po' anche me. Grazie Enrico, al prossimo sabato. Ciao a tutti. Resta in ascolto perché parliamo di cinema. Zinni Pietro, banda armata e associazione a delinquere. Pietro, parliamo di 10 anni di reclusione. Appunto, il peggio è passato. Sono una banda scalcinata di ex ricercatori universitari. Consegnatemi 30 sostanze ancora legali e io vi garantisco libertà e fedina penale pulita. È un accordo ufficioso, per la polizia non esistete. La vita ci sta dando una seconda possibilità. Rimettiamo su la banda. Niente più mignotte, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente macchine. Ricevuto. No, vabbè, niente droga. Pietro, certo, ma non ti fidi? Guarda, sono come un ginecologo. In che senso mi sfugge, però? Cioè, nel senso, non è che adesso il ginecologo ogni volta che vede una... una cosa che gli ma piace... Ma che cazzo di fatto? Ho fatto l'esempio sbagliato! Oh, ecco, questo è un trailer di un film che ha incuriosito tutti. tutti. Smetto quando voglio Masterclass, che è il secondo capitolo di quello che ormai abbiamo capito essere una saga, quasi insomma una trilogia per questo film che è già uscito nel suo primo capitolo qualche anno fa, ha avuto un grande successo. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensa Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora cosa pensi di questo Smetto quando voglio Masterclass? Ma guarda, devo dirti che ne pensato, ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori, ne penso abbastanza bene, perché è un film che si distacca molto dal primo, nel senso che se nel primo c'era qualcosa, c'era una tematica diciamo forte, che era quella insomma di una generazione che doveva di geni, insomma qualcuno ha parlato di fuga dei cervelli, ma in questo caso era di diverso utilizzo del cervello, cioè di geni veri e propri che però in questa nostra società in maniera un po' paradossale, anche un po' forzata se vogliamo, però dovevano mettersi a fare del crimine, insomma, per cercare di sbarcare il lunario. Ecco, stavolta svelato l'arcano, si parte da lì e si arriva a un'altra soluzione che non vi sveliamo, ma lo si fa attraverso meccanismi che sono più puramente cinematografici, cioè l'idea è: vi abbiamo detto qual è il pretesto, non ve lo ridiciamo, partiamo da qui con questo manipolo di antieroi che vogliono rendersi utili a tutti i costi, diventano una sorta di hacker interni per scoprire le malefatte di un gruppo di veri criminali in collaborazione coperta, undercover, insomma, con la polizia, ma qui è tutto un pretesto per fare azione e divertimento. Quindi per fare una sorta di cinema industriale, cinema di prodotto medio di buona qualità, ma anche di ampio pubblico, che è quello che manca, che spesso è mancato al cinema italiano negli anni più recenti. E in questo senso Smetto quando voglio 2 Masterclass, e poi forse anche il 3, che è già preannunciato durante questo film, stanno dalle parti di Gig Robot, di Veloce come il vento, di film insomma che cercano lo spettacolo, cercano l'intrattenimento, lo fanno con un buon livello di qualità, al di là di qualche magari errore o di qualche cosa che convince meno nel film. Mi sembra molto importante il progetto, ridere, qualche volta si ride, qualche volta si sorride, ma sicuramente le 2 ore passano via gradevoli, quindi devo dire che è un film che in questo senso promuovo. Franco, ancora consigli, cosa ci segnali ancora in uscita questo fine settimana al cinema? Ma guarda, ci sono 2 film che viaggiano insieme secondo me, perché alla fine se vuoi trattano lo stesso tema. Stiamo parlando di Billy Lynn, Un giorno da eroe di Ang Lee, e di La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson. Lo fanno con 2 stili cinematografici diametralmente opposti, sono 2 guerre diverse, però raccontano sempre gli effetti della guerra sull'uomo, sul singolo uomo in questo caso. Nel film di Ang Lee, Billy Lynn è un reduce momentaneo dal Medio Oriente, dove si è, come dire, fregiato di un atto eroico, e per festeggiare questo atto eroico ritorna in patria una 15ina di giorni, ma la sua squadra, la Bravo, sarà sballottata qui e lì all'interno di situazioni che sono soprattutto quelle di una importante gara di football americano, cioè dentro il vero carrozzone della passione sportiva americana. Ci sono le 2 passioni dell'America, quella della presenza militare da quelle parti e quella del football, che poi è anche un po' metafora della conquista del territorio. E Ang Lee è bravo in questo senso a far risaltare le difficoltà anche umane, proprio di stare così davanti ai riflettori per qualcuno che ha visto morire e forse anche egli stesso ha provocato la morte in guerra. Hacksaw Ridge torna indietro, la battaglia di Okinawa, la mano è quella di Mel Gibson, che è una mano cinematograficamente ormai molto esperta, capace di raccontare queste storie, con sempre con la sua partecipazione, qualcuno dice con il suo integralismo, ma lo fa veramente in una maniera divina in questo caso, e divina non è un aggettivo qualsiasi, per raccontare anche lì un uomo che senza armi in questo caso ha salvato tantissime vite rischiando la sua. Ecco, sono 2 film che ci insegnano come l'effetto che, come dicevo, della guerra sull'uomo, sul singolo individuo, non sia cambiato dalla Seconda Guerra Mondiale alle guerre in Medio Oriente di oggi. Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea, ciao! Con la Rosa Purpurea, Marte, con tutta la gang di Smetto quanto voglio, soprattutto il regista Sidney Siviglia ed Edoardo Leo, il protagonista principale, proprio per chiacchierare un po' attorno a questo film. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. in collaborazione con Euronet Plus. Il sabato del villaggio. E ci risiamo dopo il GR24 di Gigi Donelli, il sabato pomeriggio di Radio 24, 349 238 6666 per i vostri sms e anche per i vostri whatsapp, chiocciola Marta Cagnola se volete stanarmi via Twitter, ci sono, ma anche via Instagram, chiocciola Marta Cagnola. I temi della seconda ora, torniamo a parlare di cinema con il fenomeno del momento, perché tutti continuano a parlare di La La Land? Cercheremo di capirlo tra poco. Per il capitolo dei consumi e delle nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali parliamo di carte fedeltà e di feste per bambini. E poi i libri del momento con Alessandra Tedesco. Ma prima cominciamo a parlare di un nuovo appuntamento televisivo. Per presentarlo prendiamo a prestito le parole di Ilaria Dallatana, direttore di Rai 2, che così ha detto a TV Talk. C'è una fascia che voi analisti televisivi saprete meglio di me, fondamentale per le televisioni generaliste, che è quella dell'access prime time. È una fascia in cui mi sono convinta che non conti tanto il risultato ma la presenza. Cioè una televisione generalista lì ci deve essere, perché è dove bisogna alzare il fortino e resistere, ci deve essere. In quella fascia abbiamo studiato un progetto coi Jalappas, che sono venuti proponendomi un sedicente, a loro dire, giornalista, Michele Foresta. Io ho detto qualche dubbio che sia giornalista. A quel punto abbiamo deciso di affiancare a lui una vera giornalista per fare uno spazio per raccontare tutte le notizie, diciamo, che il TG non racconta. Mancano 4 secondi. Come 4? 2 secondi. 2 secondi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Bene, abbiamo capito, buonasera. Questo è il paese reale. Ma cos'è sta roba? Ma non è il paese reale. Il corteo di protesta manifestato. Manifestato cosa? Ma cos'è? Questo è Rai Dire News. Rai Dire News. Bello che ripetiate tutto due volte. Parecchio originale. E soprattutto da ridere. Rai Dire News. Oh, Rai Dire News, il titolo l'abbiamo capito. Abbiamo capito che sarà su Rai 2 Access Prime Time, cioè dopo il TG2, se ho ben capito. Ma cominciamo già a parlarne, perché arriverà il 13 febbraio. La prossima settimana saremo un po' distratti, anche loro saranno un po' distratti. Abbiamo con noi direttamente dalla Jalappas Band il leggendario Carlo Taranto. Buongiorno Carlo. Buongiorno Marta, grazie mille. Ma che emozione sentire questa voce così dal vivo. L'importante è non vedere i volti. No, ma no, l'emozione allora si trasforma in un altro stato d'animo. Allora, signor Carlo, era una vita che volevo dire, signor Carlo. Tra le domande che io mi ero segnata, sì, e potrei fare una foto e twittarla in questo momento, era: sì, ma voi siete sempre stati anche dei bei ragazzi. Perché avete deciso di non farvi vedere mai? Perché siete sempre stati anche dei bei ragazzi, io lo so perché vi ho visto. Beh, eventualmente, ammesso che quello che dici sia vero, riguarda gli anni 70-80, che sono un po' lontanini, adesso non so quale sia e non voglio sapere la tua data di nascita, ma insomma, abbiamo capito che alla lunga sarebbe stato meglio non mostrarsi. Poi in realtà in quegli anni, ma forse ancora di più adesso, però diciamo già in quegli anni si notava troppa gente che scalpitava per apparire, a noi la cosa non interessava. E abbiamo notato che era molto più efficace ciò che dicevamo senza essere visti di ciò che dicevamo venendo inquadrati. Cioè abbiamo capito che venendo inquadrati la forza di ciò che dicevamo veniva cancellata in qualche modo dalla nostra faccia imbarazzata. Perché no, è così. C'è gente che, sì, c'è gente che si nutre dell'energia della telecamera e c'è gente invece che perde la propria energia, un po' come la criptonite. E noi facciamo parte di questa seconda categoria, come peraltro il 90% degli italiani. C'è quel 10% che invece davanti a una telecamera si illumina. Cioè io ho visto comici che se non c'era la telecamera accesa sembravano morti, ma proprio morti, non per dire, morti. Fantastico. E invece con la telecamera accesa acquisivano vita. E noi siamo normali come gli altri, quindi inquadrati perdiamo. Allora Carlo, abbiamo sentito appunto in questo pezzettino che abbiamo rubato a TV Talk, sì, il direttore di Rai 2 che diceva un'idea della Jalappas Band. Allora, come fate? Ha detto una cosa esilarante, abbiamo studiato un progetto. Ecco, io ma spero... come fate a studiare tutta sta roba? Perché quest'anno è Milano-Roma, sì, e Rai Dire News. Poi la prossima settimana ci vediamo là al mare, in quel posto là, dopo ti chiedo qualcosa, ci vediamo là al mare in Liguria. Sì. Allora sappi che sono appena tornato e diluviava, quindi ecco, non credo che ci aspetti una bella settimana, nemmeno bene, dal punto di vista meteorologico. Bene. No, mi ha fatto ridere sentire la direttrice di rete che utilizzava il verbo studiare, perché studiare è un verbo che ci assomiglia pochissimo, studiare un progetto poi ancora meno. E quello che ha detto però effettivamente è vero, cioè che quella fascia che tu hai chiamato giustamente access prime time, ma ti avverto che in Rai viene chiamata access. Noi abbiamo fatto tantissime riunioni anche con gente plurilaureata che ci spiegava il marketing, chi c'è a quell'ora davanti al televisore, chi ha il potere sul telecomando, e tutti dicono access. Quindi facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Ecco, sì, già fatto. Ecco. Già fatto. Quindi, che però in pratica voi, cioè sarà vengo dopo il TG come si faceva un tempo. Sarà quello, avremo per fortuna una giornalista, quindi la gente potrà, ahimè, essere tratta in inganno e pensare che in qualche modo sia davvero l'aggiornamento del TG2, e in effetti invece non sarà un telegiornale, anche se parleremo di notizie. E quello che succederà in sostanza sarà che si darà spazio a quelle notizie che tutti noi ogni giorno non solo riceviamo ma condividiamo con gli altri via social network, certo. E che paradossalmente diciamo sono le notizie che più condividiamo ma che meno ci vengono date. Non so se tu ci hai fatto caso, ma le notizie che vediamo al telegiornale sono notizie che non ti viene mai voglia di comunicare a un'altra persona, cioè non hai mai l'impulso, caspita, è successo questo, devo subito dirlo a. Invece le notizie, adesso non vorrei usare un francesismo, diciamo... No, ma queste a Radio 24 si usano talvolta. Okay, no, sì. Mi limito a dire del cavolo. Quelle notizie lì, invece dici, questa non posso non mandarla a tutti. E quindi c'è questo paradosso per cui i telegiornali ci parlano solo di sciagure e purtroppo la realtà quotidiana non ce ne fa mancare. E invece noi tutti, forse anche per proteggerci un po' da questo stato d'animo plumbeo che è la crisi e il tipo di giornalismo che prevale in TV e non solo in TV, ci stanno creando intorno, condividiamo solo fesserie, per cui noi daremo spazio a quelle immagini, quei video virali che ognuno di noi riceve via WhatsApp o tramite qualunque altro social network, oppure che ci andiamo addirittura a cercare online. E peraltro ormai, come sai bene, come sanno bene gli ascoltatori, ci sono due parti nelle pagine online delle testate. Fatti il colonnino di destra? Esatto. Oh. Noi ci occuperemo del colonnino di destra, che è quello che viene molto spesso più guardato, e dovremmo anche qui farci una domanda e darci una risposta, ma che non trova spazio in televisione. E poi aggiungo, ma questo è il sogno e difficilmente ci arriveremo, anche quel colonnino ci può dire molto della realtà, per certi versi ci può dire più della realtà che ci viene narrata normalmente, cioè io continuo a pensare che ci vengano raccontati tantissimi episodi di violenza che, ahimè, è brutto dirlo, ma hanno reale interesse solo per i familiari delle persone coinvolte, e non ci vengano raccontate invece cose che hanno interesse per tutti noi, e nel colonnino di destra è più facile trovarle che in un orribile omicidio avvenuto in un paesino. Sono d'accordo. Per cui non so se ci riusciremo, anzi ti dico già che non ci riusciremo, ma prometto che un pochino ci proveremo. Allora fammi fare la giornalista, anche se purtroppo non indosso il tubino bene come Mia Ceranchia, fisico oltre ogni immaginazione. A quell'ora lì, insomma, avete una corazzata contro da tanti anni, insomma, c'è Striscia la Notizia. Ne abbiamo tante. Come volete incunearvi? Che verbo tirato fuori. Da quel punto di vista, io credo e spero sia stata sincera la direttrice di rete, sentivo che parlava di una necessità editoriale e non di ascolto. E devo dirti che posso garantire che era sincera, perché lei avrebbe potuto mandare in onda a quell'ora un programma che è l'unico nella storia di Rai 2 che abbia funzionato, ma è arrivato a fare l'8%, che è una follia, cioè a eguagliare l'ascolto con cui chiude il TG2. Tutti gli altri esperimenti fatti, come anche quello attuale in onda, stanno molto sotto, diciamo che stanno intorno alla metà di quell'ascolto. Però lei non ha voluto fare ancora quella trasmissione con un programma canadese, LOL, che non dà nessuna identità, secondo lei, alla sua rete, quindi ha detto preferisco non fare l'8%, rinunciare all'ascolto, tanto parliamo di un quarto d'ora. ma fare una cosa che assomigli alla rete che ho in mente. Poi bisognerebbe farsi anche qui la domanda: ma sei sicura di avere in mente una rete che assomigli a Rai Dire News? Fidiamoci. Probabilmente perché lei se l'ha immaginato in un modo, non so se il modo in cui ci riusciremo, ci sarà facile farlo, però ci proveremo. E quindi dal punto di vista degli ascolti non c'è nessun obiettivo, cioè la norma è questa: per i dati Auditel, che sono quelli che vengono presi per veri, benché si possa anche qui aprire una gran serie di domande e risposte, il TG2 finisce all'8%, dopodiché c'è una fascia pubblicitaria e la gente giustamente comincia a piazzarsi altrove e la rete scende al 3%. E quindi la norma è fare il 3% lì, non certo gli ascolti che fa Canale 5 o Rai 1 con le loro proposte di access prime time, anzi access prime time. Access prime time, certo. Esatto. Per cui, se va detto bene. Sì, esatto, quindi non c'è nessun obiettivo d'ascolto. Per fortuna, almeno così ci hanno detto, ma avrei potuto fare LOL, risolveva problemi anche nostri, cioè non dovevamo fare appunto l'ennesimo programma, tu li hai elencati prima di quest'anno. Dopodiché è chiaro che il nostro programma potrebbe assomigliare ad altre cose che vengono proposte, non necessariamente a quell'ora, per cui molti ci hanno detto: ma cos'è la risposta di Rai 2 Gazebo? Boh, per certi versi sì, magari, diciamo, la sua risposta è sempre magari, cioè ci dicono: ma assomiglierete a Fiorello? Magari. Ma assomiglierete un po' a Sesta Notizia? Ma magari. Sono 30 anni che il programma più visto della TV. Dopodiché nessuno vuole fare Fiorello, non siamo all'altezza, nessuno vuole fare Gazebo, non siamo all'altezza, nessuno vuole fare Sesta Notizia, non siamo all'altezza e abbiamo in mente un'altra cosa. E quindi noi il 13 siamo lì, curiosi come le scimmie. Dateci tempo di rodarlo, no? No, no, io sono già lì, curiosa come una scimmia all'Access il 13. Però io consiglio di aspettare il 20, il 27, il mese dopo. Grandissimo. Allora, nel frattempo invece, questa settimana Sanremo, tutte le sere, il dopo festival, dopo la serata, vabbè. Compresa la finale. Quest'anno c'è questa novità. Sì, ci fanno fare anche il dopo festival di quando veramente il festival è finito. Ed è una scommessa strana, se non altro perché la gente a quel punto di botto non vuol più sapere niente di Sanremo. Cioè, quando si sa il vincitore, uno dice: va bene, sono 5 giorni che parlo solo di questo, non ne posso più. Ma non solo, questo è il meno, cioè non solo non avremo pubblico, non avremo neanche, temo, i cantanti, perché chi sarà arrivato dal terzo posto in giù sarà già partito, sarà arrabbiato, non sarà di buon umore. Non... I primi tre invece hanno un obbligo di partecipazione a una conferenza stampa. Come certo, è... certo, dove... noi siamo lì, esatto, alla conferenza stampa. Esatto. Sì. Quindi noi non avremo né i primi tre, né quelli dal quarto al ventiduesimo. Perciò sarà una puntata sarà anomala. Molto divertente, sarà molto divertente. Venite a farla in sala stampa. Signor Carlo, grazie. Grazie a voi. Che meraviglia, ma è stata proprio una bella chiacchierata e adesso mi è passata l'emozione di avere in diretta Carlo Taranto. Allora, Rai Dire News, aspettiamo che finisca Sanremo e poi Access Prime Time, cioè dopo il TG2 dal 13 febbraio. Grazie mille. Access Prime Time. Per chi lavorasse in Rai, se no non capisce, no. Viva l'Access. Ciao Carlo, ciao, grazie. Ciao. Ci troviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Tu sai da 24 ore che un mago non registrato ha liberato degli animali magici a New York? Sì. Dov'è quest'uomo? Allora, tu sei quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Signor Scamander, lei non sa niente della comunità magica in America? Non lasciamo libere cose. Ehi, signor tizio inglese, il suo uovo si schiude! Le ha cancellato la memoria, sì, al Nomag. Al cosa? Non magico, al non mago! Scusi, noi le chiamiamo Babani. Torniamo sugli animali fantastici e dove trovarli, perché sento un frammento del film che è andato benissimo, che era molto atteso, che è stato molto gradito, che ha avuto un sacco di successo, ma perché torniamo a parlarne con la nostra Alessandra Tedesco. Alessandra? Ah, ecco, la copertina dura, rigida, in mano un bel libro. Eh sì, tu sentivi le voci prima, giustamente quelle del film, ma io ti ho fatto sentire il rumore della copertina rigida del libro che si intitola Animali fantastici e dove trovarli, scritto da J.K. Rowling, pubblicato in Italia da Salani. Allora, chiariamo, quello che trovate ora in libreria, che sta avendo grande successo, è la sceneggiatura integrale del film. È la prima volta che J.K. Rowling, l'autrice insomma del maghetto Harry Potter, ormai lo sappiamo tutti, si diletta sulla sceneggiatura. È una sorta di spin-off dello stesso Harry Potter, perché J.K. Rowling aveva scritto dei libri parecchi anni fa, sempre che avevano a che fare con Harry Potter, fra cui appunto gli animali fantastici. Ora che insomma voleva farne un film, ha scritto anche la sceneggiatura. Quindi il vecchio libro scritto per beneficenza esiste, ma non so neanche se sia stato tradotto in italiano. Mm-hmm. Adesso però c'è a disposizione sicuramente Animali fantastici dove trovarli, la sceneggiatura, che sta avendo un successo strepitoso. Ma infatti, Marta, stavo dicendo, secondo me gli appassionati di J.K. Rowling, si anche se sanno a memoria il film, vogliono averlo anche scritto. Ma tu sai quanto ha venduto J.K. Rowling? Adesso, non per fare i conti in tasca J.K. Rowling. Facciamoli, dai. Allora, 450 milioni di copie. Metti anche che ha preso 2 euro a copia, basta, non voglio farle i conti in tasca. Parliamo però della trama di questa sceneggiatura, visto che chi non ha magari ancora visto il film non lo sa. Siamo negli anni 20, nel 26 a New York, e c'è questo, scusa, io rido perché si chiama magizoologo, cioè è un mago che studia gli animali magici. Si chiama Newt Scamander. Che cosa fa? Insomma, va a New York, in un posto particolare, al Magico Congresso degli Stati Uniti d'America, si apre questa valigetta che lui ha, dove ci sono migliaia di creature magiche che iniziano a vagare per New York, e quindi da qui iniziano un sacco di peripezie e avventure. Mi piace molto. Poi mi piace molto perché uno di questi animali si chiama lo snaso, e a me lo snaso piace tantissimo. No, devo dire, molto carino. Io non sono particolarmente appassionata di questo genere, però ammetto che J.K. Rowling, insomma, è una che veramente con le parole ci sa fare. Quindi il libro del momento della settimana, assolutamente, sì. Questo è la sceneggiatura. Poi strano, perché una sceneggiatura così venduta. Quando J.K. Rowling mette la penna sulla carta, stai sicuro che vende qualunque cosa. Ancora consigli, Alessandra? Allora, da J.K. Rowling, cioè da questo fantasy, passiamo invece a storie decisamente concrete. Una storia che potrebbe anche essere vera, tutto sommato. È un libro che mi è piaciuto, si intitola Tutto quello che non ricordo, l'ha scritto Jonas Hassen Kemiri, pubblicato da Iperborea. E quindi ora, io già ho capito dalla dimensione del libro, ecco, perché Iperborea hanno delle dimensioni molto belli, sono allungati, piccolini, sono sempre ambientati nell'Europa del Nord, anche questa volta. Eh sì, perché lui è svedese, a dispetto del nome, abbiamo detto Jonas Hassen Kemiri, è svedese, nel senso che è la mamma svedese e il papà tunisino. Questo è un romanzo ambientato a Stoccolma, è una storia veramente molto bella, soprattutto per il modo in cui è raccontata. Il protagonista è un giovane, Samuel, che purtroppo muore in un incidente stradale. Questo lo si capisce dal primo, diciamo, dalle prime pagine. Non si capisce però se lui si sia voluto togliere volontariamente la vita, deluso dal fatto che gli amici non avevano realmente capito come fosse. E allora che cosa fa l'autore di questo libro? Ci racconta la vita, la storia e le caratteristiche di Samuel attraverso gli amici di Samuel. Cioè non è mai lui che parla, ma lo vediamo ricostruita la sua, diciamo, immagine dall'amico fidato Vandad, con il quale forse potrebbe anche nascere una storia d'amore, chi lo sa, dalla sua fidanzata Leida, da un'altra amica artista che si chiama Pantera, da uno scrittore che all'interno del libro vuole raccontare la storia di Samuel. Cioè è tutto un gioco di scatole quasi, ma è molto bello perché alla fine hai la sensazione, dici, ma chi era veramente Samuel? Bello, però a chi lo consigliamo? Perché mi sembra così affascinante, ma anche forse un po' complesso, non so. Complesso no, però sicuramente, ecco, il mio consiglio è di leggere almeno 30 pagine insieme a volta, perché altrimenti si perde il senso di chi sia il narratore in quel momento. Certo. Quindi lo consiglio a tutti coloro i quali si fanno tante domande nella vita su come siamo noi, come ci vedono gli altri e non hanno paura ad affrontare questa domanda. Non avrete la risposta nel libro, però sicuramente è una riflessione che è molto affascinante. Poi si parla della Stoccolma di oggi, dove ci sono molti migranti di seconda, terza generazione, come lo è appunto lo scrittore Kemire. Insomma, è un libro, un romanzo molto appassionante, interessante. Mi piace molto. Ancora consigli? Guarda, visto che il nostro mondo giornalistico è preso sempre in giro, no? È presente, giornali sempre meglio che lavorare, fare il giornalista. Sì. Allora ho scelto un romanzo scritto da un giornalista che riguarda un po' la vita cialtronesca di alcuni di noi, mettiamola così. Si intitola Scoop, l'ha scritto Enrico Franceschini, pubblicato da Feltrinelli. Franceschini è corrispondente da varie parti del mondo, New York, Washington, Mosca, adesso è a Londra per il quotidiano La Repubblica. E in questo romanzo si è immaginato un giovane cronista, 25 anni, che sogna di fare, sai, il giornalista d'assalto, come forse tutti noi abbiamo desiderato in passato, che viene mandato quasi per errore nel Centro America a seguire una rivolta. Arriva lì e cosa trova? Trova l'inviato nell'hotel. Cioè, è presente il cosiddetto cronista di guerra, siamo negli anni 80, che invece di stare realmente sul campo è in un hotel lussuoso dove se la gode e scrive pezzi anche un po' inventati. Al di là, insomma, di questa parodia della cialtroneria di alcuni giornalisti, chiaramente adesso non esistono più. No. È un romanzo interessante perché chi non è giornalista, allora chi è giornalista chiaramente ci vede tante cose che conosce e ride, sogghigna proprio. Chi non è giornalista capisce certi meccanismi. In realtà poi anche i giornalisti cialtroni in questo romanzo finiscono per diventare buoni ed impegnati grazie appunto a questo giovane giornalista. Meno che male. Li sprona. Ringrazio Scoop. Enrico Franceschini, perché già la categoria, insomma, in questo periodo non è proprio tanto difesa, almeno ci dà uno spiraglio. Mi incuriosisce molto. Guarda, è divertente. Perché... lo confesso agli ascoltatori, Alessandra mi fa sempre venire voglia di leggere i libri di cui parla. Io me li segno e poi mano a mano li recupero. Questo è uno di quelli che leggerò segna, sicuramente. Scoop Enrico Franceschini. Quello lo leggerò sicuramente. Alessandra, ancora un tempo per un paio di consigli. Guarda, due consigli flash. Questa volta tutti i libri che ho letto mi sono piaciuti tanto, quindi sono proprio dei consigli personali. Magari non sono i romanzi del momento, come quello di J.K. Rowling, della sceneggiatura, però sono libri veramente, veramente validi. Io mi fido. Si intitola Ultima la luce, l'ha scritto Gaia Manzini, pubblicato da Mondadori. Guarda, ti spiego in due secondi la trama, ma la bellezza di questo romanzo non è tanto la trama, è come vengono analizzati i personaggi e la loro, come dire, umanità, le varie sfaccettature, che è veramente interessante ed è una bella prova d'autore da parte di Gaia Manzini. Due fratelli sui 60 anni più o meno, Ivano e Lorenzo. Ivano, una volta che muore la moglie Sofia, va finalmente a trovare Lorenzo a Santo Domingo. Lorenzo prima lavorava in borsa, a un certo punto si è scocciato, è andato a vivere, sai, come la classica cosa, vado ad aprire il chiosco di banane, eccetera, in un'isola deserta. Lui è andato a Santo Domingo. Questi fratelli quindi si incontrano, ma si scoprono tante cose di se stessi. Soprattutto Ivano scopre tante cose del rapporto reale che c'era fra lui e la moglie Sofia, che è morta, fra lui e la figlia. Insomma, è un ritratto di famiglia, di sentimenti, di cose che accadono, di cose che sembrano in un modo e magari poi sono in un'altra. Ecco, sono già due i libri che voglio leggere assolutamente, perché mi incuriosisce questo poter capire e non capire della trama. Ultimo consiglio, Alessandra. Ultimo consiglio? Beh, insomma, se in questi giorni fate dei weekend, magari sulla neve, andate, partite, eccetera, in macchina, la cosa più bella è ascoltare un audiolibro. E stavolta ti ho scelto un signor audiolibro. Soprattutto quando ci sono le gallerie, si prende poco Radio 24, solo in questi casi. Solo in quei casi, naturalmente, ma anche a casa. Lamento di Portnoy, Philip Roth, ho bisogno di altre presentazioni? No, però sono curiosa di sapere chi legge questo audiolibro, magari ne ascoltiamo un pochino. Sì, ascoltiamolo un pochino e poi ti dico chi è. Credo addirittura di aver temuto che qualora l'avessi vista rientrare in volo da scuola attraverso la finestra della camera o materializzarsi nel grembiule, membro dopo membro, da uno stato di invisibilità, avrei dovuto per questo morire. Allora, io ho un po' l'impressione di averlo riconosciuto... ma non sono così sicura. Se ti dicessi Luca Marinelli? Ah, che bel ragazzo. Ero sicura, era lui, veramente bravissimo, uno degli attori del momento. Ormai non è più rivelazione, non è più emergente, è un attore che amiamo tutti. E per fortuna ormai continuiamo a dire sempre emergente, sì, ha recitato in Lo chiamavano Gigrobò e Non essere cattivo, insomma, certo. Due film, tu mi insegni, che sono stati di grande successo. Grandissimo successo, e lui veramente, veramente un bravissimo attore. E insomma, questo Lamento di Portnoy, lo sapete di cosa parla, insomma, è un po' complicato spiegarlo a quest'ora del pomeriggio, però fidatevi, se non avete letto il libro Lamento di Portnoy, potete ascoltare l'audiolibro letto da Luca Marinelli e pubblicato da Emmons Audiolibri, appunto. Invece, per concludere, Alessandra, il cacciatore di libri, dove, come, quando e soprattutto con chi? Andate sulla nostra app, vedi come lo faccio. Scaricatevi l'app, così vi cuccate il cacciatore di libri quando volete, in podcast, comunque se lo volete sentire, come dire, dalla radio, dalle casse della radio, il sabato mattina alle 6.30 e in replica alle 22. Ospite di questa sera? Donato Carrisi, il maestro delle ombre. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. E a tutti quelli che scrivono al 349-238-6666 via sms, via whatsapp, non è vero, sono solo due sms che dicono basta con sto Sanremo, festival di Sanremo, accanimento terapeutico, sono due sms. Ragazzi, la prossima settimana siamo in onda da Sanremo, quindi facciamocene una ragione, è la notizia del momento. Parleremo un sacco di Sanremo. Che ci dobbiamo fare? Che ci dobbiamo fare il momento di Sanremo? Ma non vi preoccupate, dura poco, la prossima settimana poi è già finito. Come ha detto prima anche il signor Carlo della Jalappas Band. E poi devo rispondere al tweet di Il Rere, chiocciola Il Rere, che mi ha detto: annuncio del traffico senza traffico, rientro senza scuse, sento puzza di registrata. No, Il Rere, io ero convinta di non aver sentito io il traffico in onda. Adesso mi sono chiarita con la regia, hanno avuto un problema di collegamento, io ero convinta di avere del silenzio in onda, ma perché non lo sentivo io. Vabbè, sono un po' rimbambita, ma questa non è una notizia, non è una notizia. Allora adesso parliamo di consumi, parliamo di nuove tendenze, e per introdurre il tema io ho scelto un vecchio pezzo sempre bellissimo dei Simply Red. Fedeltà, quale sarà l'argomento che ha scelto la nostra Maria Luisa Pezzali? In quale modo questi concetti si applicano ai consumi? Beh, sicuramente molti. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. È un valore la fedeltà anche nei consumi, beh, non solo nell'amore. Assolutamente, è un valore nei consumi, uno dei valori cardine, diciamo così, di chi si occupa di marketing, e parliamo ovviamente di punti fedeltà, e questa la traduzione a livello consumi, in particolare negli alberghi, quindi soprattutto miglia, ma non ci sono solo quelle. Oggi viaggiare significa accumulare punti anche negli alberghi, così come del resto avviene ormai per qualsiasi altro atto d'acquisto. Basta guardare un po' il nostro portafoglio, Marta, aprirlo e vedere quante carte fedeltà ci sono. E tante. Poi tante, per non, come dire, far succedere quella scena pietosa davanti alle casse in cui ti chiedono: ah, la carta fedeltà, e tu io dici: io sbaglio e do quella di un altro supermercato e mi sento molto in imbarazzo. Esatto, oppure dici sì sì ce l'ho e passano i secondi e tu la cerchi e non la trovi. Mm-hmm. Vabbè, ormai c'è una soluzione per tutto, c'è un'app per tutto, c'è un'app anche per questo, Stockard. Ah, la uso anch'io, ecco, la uso anch'io. È una di quelle assolutamente che funzionano meglio è l'app per registrare le carte fedeltà nel proprio smartphone e quindi finalmente liberare il portafoglio. Il mio si è praticamente dimezzato, non so il tuo, anche Marta. Il mio, devo dire che mi arrabbio molto quando alcuni negozianti non accettano la carta immateriale sul telefonino, perché ormai è impossibile portarsi in giro tutte le carte di plastica, diciamo. Beh, a me non è mai capitato, sinceramente. È capitato in una catena di fast food, diciamo, di ispirazione americana, e ho detto: pure, io ce l'ho sul telefonino, e mi hanno detto no, noi vogliamo quella cartacea. Ah, vabbè, tiriamo le orecchie, insomma. Comunque, basta scaricarla, non bisogna neanche registrarsi, si scannerizzano le carte, quindi basta posizionare il codice a barre davanti alla videocamera del telefonino e via, poi si inizia ad usarle, veramente semplicissimo. Questa però era una parentesi, torniamo a parlare di alberghi, perché è arrivata anche in Italia OneUp. OneUp.com è il primo club internazionale di fedeltà degli hotel, da quelli delle grandi catene a quelli indipendenti, quindi dai 5 stelle agli agriturismi, possiamo dire. Offre la possibilità di accumulare e spendere punti fedeltà in modo trasversale e in tutto il mondo. Quindi, Marta, non è più legato a una sola catena, puoi, certo, essere infedele in questo. Sì, perché a volte c'è un'offerta migliore o anche un albergo in una posizione migliore che conviene meglio al nostro viaggio, ecco. Esatto, bene, quindi bene, funziona in pratica come una coalition card, cioè quelle carte fedeltà che accomunano diverse insegne dalla grande distribuzione ai benzinai, quindi la logica è quella, è molto trasversale. Lanciata nel 2016 in Spagna, OneUp è già presente in 15 paesi europei, tra cui appunto l'Italia, e allora noi abbiamo intervistato Daniele Di Bella, che è il direttore commerciale. Ecco che cosa ci ha detto. Diciamo che il punto forte è che OneUp coniuga la personalizzazione e il prestigio di un tradizionale programma di fedeltà alberghiera con la flessibilità e la diversità di un'offerta classica da online travel agency. Per quanto riguarda l'offerta, OneUp ai propri hotel partner fornisce una maggiore visibilità, informazioni sui consumatori, quindi tutto quello che è big data relativo ai guest in arrivo agli hotel sarà molto enfatizzato all'interno del nostro programma, e soprattutto la tecnologia proprietaria. E tutto ciò permette agli albergatori di lavorare con commissioni molto inferiori rispetto alle offerte normali. Per quanto riguarda invece i viaggiatori, chiaramente come programma di fidelizzazione andremo ad attribuire ai viaggiatori che utilizzano le nostre strutture registrate all'interno del nostro programma la possibilità di ottenere del travel cash che possono utilizzare immediatamente per le loro prenotazioni successive, in aggiunta ad una serie di benefici che possono utilizzare durante il loro soggiorno. Ti faccio qualche esempio: la colazione gratuita, il wifi gratuito, la possibilità di avere un check-in prioritario o un check-out ritardato o un upgrade della stanza prenotata. Possiamo definirla una sorta di coalition card dell'hotellerie, per prendere l'esempio dalla grande distribuzione? Assolutamente, diciamo che la diversità è proprio un elemento distintivo di OneUp, perché a differenza dei classici programmi di catena noi non andiamo a riferirci a un target determinato a livello di stelle, come un 4 o 5 stelle. All'interno del nostro programma si possono ritrovare tutti i tipi di strutture, dall'agriturismo alla masseria, al 4 stelle, al 5 stelle. Cerchiamo di dare un prodotto diversificato in modo tale che qualunque tipo di viaggiatore possa utilizzare il nostro programma senza limitazioni. E quindi la possibilità di guadagnare punti, semplifichiamo in questo modo, in tutte le strutture presso, esatto, le quali, esatto, alloggiamo. Quindi, insomma, un bel vantaggio che, come dire, allarga la possibilità appunto per tutti gli utenti. Voi arrivate in Italia adesso, che tipo di riscontro state raccogliendo? Il riscontro, devo essere sincero, è stato ottimo. Abbiamo aperto il nostro sito internet al pubblico il 28 settembre del 2016, quindi siamo molto molto giovani, però in Italia abbiamo avuto un riscontro positivo. Abbiamo circa 70 strutture già affiliate al nostro programma, in continua crescita a livello numerico. Abbiamo un buon portfolio già presente nella costiera amalfitana, nel Salento e anche nella parte di Roma, e stiamo cercando chiaramente di espanderci il più possibile e di offrire una collezione di strutture varie volontaria ai nostri membri. Al momento siamo operativi in 15 paesi in Europa, per riassumere tutto ciò che va dalla Germania sino al Portogallo, quindi includendo Regno Unito, Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, eccetera. Ci muoviamo su circa al momento quasi 400 strutture e offriamo circa 30.000 camere ai nostri membri. Però chiaramente questo è solamente una fase iniziale, la seconda fase ci andiamo a spostare sull'Eastern Europe, quindi tutta la parte della Croazia, la Grecia, la Russia, il Nord Europa e anche Latin America. Beh, molto interessante. Allora Luisa, OneUp scritto WANUP. Esatto. OneUp.com. Allora, è il momento di andare a sentire le chicche della nostra Cristina Lazzati. Sentiamo se ce l'abbiamo al telefono. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora, cosa hai scoperto per questa puntata del Sabato del Villaggio? Allora, siamo un po' ancora all'inizio dell'anno e finite le grandi feste, quelle classiche, Natale, Capodanno, eccetera, moltissimi genitori si cominciano a chiedere: ma quest'anno come faccio ad organizzare, su quale tema organizzerò la festa per i miei bambini? Ormai sempre di più abbiamo visto che ogni anno la festa si invita la classe, si invita gli amichetti, si inizia addirittura dall'asilo. Quando si comincia ad arrivare verso la terza, quarta elementare, si comincia ad essere un po' affannati. Allora sono andata da Crazy Balloons, in particolare dal mago Alberto, che è una specie di idolo dei piccolissimi di Milano e dintorni, e gli ho detto: scusami, ma quest'anno quali sono le tendenze? Sei andata, gli hai detto: signor mago Alberto. Signor mago Alberto. Il guru delle feste dei bambini. Mi dica un po' cosa possiamo consigliare, come ci possiamo muovere noi genitori per fare delle feste che siano in tendenza, che piacciono ai bambini, ma un po' diciamolo anche noi, perché poi la moda vuole sempre di più, che a un certo punto la festa per i bambini si diluisce, ma arrivano i genitori, quali ben contenti di fermarsi vanno avanti con questa festa e quindi diventano dei grandi festoni. Fanno l'after dei genitori, mi piace molto. Allora, quello che mi ha detto è: musica sempre più protagonista, anche per i più piccoli, basta canzoncine, loro ballano le hit, per cui mettete pure Rihanna e compagnia, perché ai bambini piacciono, li ascoltate voi, li ascoltano anche loro e sono perfettamente in grado di ballarli, per cui festa disco. Poi c'è la festa sport. Ok, quella di la classica del calcio che piace tanto ai maschietti, ma comincia a piacere molto anche alle femminucce, ma si stanno facendo anche largo le feste a tema basket e, udite udite, anche il golf. Poi la festa in fondo al mare, chiunque ha bambini avrà visto Oceania, sicuramente i pirati non tramontano mai, per cui bene o male tra la ricerca di Dory, pirati e Oceania, il tema è già bello che è fatto. Torna di nuovo, grazie allo spin-off, Harry Potter, per cui feste di magia, eccetera, a tema Hogwarts e giù di lì. Non tramonta mai Star Wars, anche perché è molto rinforzato, questo diciamo dai genitori, e secondo il mago Alberto soprattutto i papà, che sono dei grandi sostenitori di questa saga e che quindi hanno contagiato i loro figli, e tutti contenti si fa la festa a Star Wars. Che cosa invece è out? Le principesse tradizionali, si salva solo Frozen, anche perché Olaf e Sven piacciono anche ai maschietti e quindi si può fare una bella festa. Quindi Frozen non è passato di moda, mi dite? No. Che Frozen ancora, ok. Frozen tiene, tutte le altre invece sono in ribasso. Peppa e Masha solo per i piccolissimi, quindi all'asilo, poi dopodiché si possono cancellare. Non vanno più tanto le feste solo maschio o solo femmine, ormai si festeggia tutti insieme e la festa deve essere unisex. Poi sono andata a vedermi anche cosa succede nel mondo anglosassone. Voi sapete che sono un po' patita del mondo anglosassone, per cui un'occhiata la do sempre. Diciamo che molte cose sono molto simili. Quello che tra i vari temi che emergono in UK c'è anche il Lego Parties, anche perché è in uscita il secondo Lego 2, e poi Paw Patrol, che qui invece sono un po' meno... va benissimo invece per tutti il pigiama party, anche se in UK il pigiama party diventa anche con allestimenti di tende e giochi di società fatti anche con karaoke, eccetera. E a tema cibo, mentre in Italia si continuano a fare pizzi e pani, invece in UK sta partendo il chocolate party, dove di fatto i bambini sono invitati a conoscere meglio il cioccolato e poi a costruire figurine e sculture col cioccolato da portare a casa. Questo mi piace anche non per bambini, o il chocolate party. Insomma, ci andrei volentieri a un chocolate party. Versione adulta. Versione adulta, esatto, ce le inventiamo. Grazie Cristina per le chicche anche di questa settimana, quindi ci ritroviamo il prossimo sabato. Io sarò a Sanremo, quindi preparatemi qualcosa a tema musicale, se lo avete faremo. Voglia, va bene? Non mancheremo. Grazie a Cristina, grazie Cristina Lazzati. Invece Maria Luisa, l'appuntamento per domani. Essere avere dopo il GR delle 22 come sempre. Ciao Marta. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. Allora, con questo sms aumento del 50% il numero degli schifati dal festival che passano con me da 2 a 3, Henry, no, questo è stato carino, però ho detto che prima sono arrivati 2 sms e basta Sanremo, adesso sono 3 e poi sai anche fare un sacco di matematica, io ci ho dovuto pensare. Allora, abbiamo parlato di un sacco di argomenti, abbiamo già parlato dei film che saranno in sala questo fine settimana, ma in questo periodo, oltre a tutti questi scontri in rete, Sanremo sì, Sanremo no, ne parleremo anche a RadioTube, c'è uno scontro ancora più aspro tra appassionati, ma che dire innamorati, devoti di un film e detrattori che lo odiano. Io non so come, vabbè, entriamo in atmosfera di questo film con questa musica. Allora, gli innamorati di La La Land avranno subito riconosciuto un brano della colonna sonora. In effetti la colonna sonora è uscita ed è subito in cima alle classifiche. Mi è arrivato ieri il comunicato. La La Land ha conquistato anche proprio appunto come colonna sonora le vendite. Allora, primo posto della classifica vendita italiana sezione compilation, La La Land, secondo posto di iTunes, sulla Spotify Viral sono presenti ben 6 brani nelle prime 10 posizioni, quindi da tempo non succedeva, anche perché insomma un musical così non c'era davvero da così tanto tempo. Eppure o lo si ama o lo si odia, in rete si litiga su La La Land. Allora, per parlare di questo film ho chiamato uno dei nostri più cari amici del Sabato del Villaggio. Il suo blog, non vi dico il link, andate a googlare Sono Vivo e Non Ho Più Paura. Se lo googlate trovate subito lui. Se invece volete cercarlo sul Twitter è @giniola, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora, ma come mai la gente litiga su La La Land secondo te? Perché incrocia due caratteristiche. Uno è quei film talmente decisi che polarizza, come fu per sull'ultimo mio in mente con La Grande Bellezza, no? Così deciso che polarizza. E poi ha successo. Se non ti piace un film, piace a tutti gli altri e ha anche successo, cioè a 14 nomination, non ce la fai a gridare il tuo disprezzo, a non gridare il tuo disprezzo. Ah, ok, quindi vabbè, se un film va così così e non mi è piaciuto, sto zitto. Se invece ha avuto 14 nomination all'Oscar, eccetera, eccetera, eccetera, da film che mi piace così così diventa scandalo. Ok. Sì, perché un po' c'è quell'idea del ma che sono io che non lo capisco? In realtà non è così, è sempre un gusto, non è un problema, però ti viene da pensarlo, no? È vero, mi hai dato un'ottima risposta. Ma perché invece piace così tanto La La Land? Cioè, film che aveva conquistato i critici all'apertura di Venezia, Coppa Volpi a Emma Stone, però adesso che finalmente è uscito dopo mesi, delirio, tutti conquistati da La La Land. perché secondo me incrocia due cose molto tipiche dei nostri anni senza che ce ne accorgiamo. Cioè, ce ne siamo accorti, l'effetto nostalgia, no? Specie al cinema, noi lo sappiamo bene che stanno tornando marchi, nomi, titoli, personaggi, tornano continuamente, e lui fa un po' l'effetto nostalgia del musical di una volta, però non lo fa come lo fanno tanti altri. Cioè, chi ha visto La La Land sa che non è un film che gli piacerebbe essere un film degli anni 50, non vuole ricreare quella cosa lì, è un film molto moderno, vuole l'effetto dei musical degli anni 50, ma oggi far sentire gli spettatori come si sentivano gli spettatori degli anni 50 quando uscivano da un musical che parlava dei loro anni, parlava a noi. La La Land inizia sulla tangenziale di Los Angeles, il luogo meno da altri tempi che possa esistere, il massimo del moderno, macchine, traffico. Poi quando ci sono i film effetto nostalgia, la prima cosa spariscono i cellulari. Cioè, come se... Sì, esatto, è un tripudio. Esatto, come se, allora, non c'è il cellulare, quindi non siamo ai giorni nostri. Invece qua è normale, ci sono. E lui riesce a rendere una cosa che noi pensiamo sia da altri tempi moderna, e questo fa tutta la differenza del mondo. Non mi sento mio nonno, ma mi sento addirittura di poter... mi sento che il romanticismo vecchio stampo mi appartiene, appartiene al mio tempo. Allora, altra domanda. C'è chi dice, però i musical di un tempo erano ballati e cantati in maniera molto più... accurata, complessa. Invece non sono stati scelti due ballerini professionisti, due cantanti da Hit Parade, sono stati scelti due attori completi, perché quando ho letto che Ryan Gosling suona veramente il piano e ha imparato a suonare così in pochi mesi, tuttora non riesco a crederci, ma insomma i detrattori dicono anche questo, vabbè sì musical, però insomma la qualità così così. Sì, ma sbagliano perché non conoscono bene i musical, magari conoscono i musical più famosi, che è vero, erano fatti da grandissimi ballerini, da Fred Astaire, da Gene Kelly, da gente incredibile, ma poi esistono moltissimi altri musical, quelli che si chiamano All Singing and No Dancing, cioè tutto cantato e niente ballato. Ve ne dico un paio, giusto dei più è Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Picture Show. Sono tutti musical che non hanno balli raffinati o non hanno balli per niente, come Jesus Christ. Ma non solo, adesso faccio proprio la parte del critico per la quale tu mi hai chiamato. Ah, sì, che poi siccome ci conosciamo da qualche decennio, sai che... che cosa vorresti? Che cosa pensi che io vorrei che tu mi dicessi? Credo di averla detta giusta. Che ti tiri fuori. I musical a cui molto si rifà La La Land, ma che però non sono proprio conosciutissimi da tutti, sono un po' una cosa da critici. Però se volete approfondirli sono belli. Sono due musical di Jacques Demy, che era un francese degli anni 60, a colori molto vivaci, proprio come La La Land, non ballati ma cantati, con Catherine Deneuve addirittura. Uno è uscito in Italia e si chiama Josephine, in realtà in originale è Le Damoiselles de Rochefort. L'altro, molto bello, mai uscito in Italia, che si chiama, difficilissimo il nome, però ci provo, Le Parapluie de Cherbourg, che vorrebbe dire gli ombrelli di Cherbourg. Ma l'hai detto benissimo, fantastico. Lo so, perché mi schernisco, ma in realtà... Ma in realtà il francese così lo maneggi con disinvoltura. Sono anche questi dei musical molto importanti, molto riusciti, dove insomma c'è Catherine Deneuve che di certo non balla, ma addirittura Catherine Deneuve neanche canta, è doppiata, mentre invece Emma Stone e Ryan Gosling se non altro cantano. Allora, sono molto, molto d'accordo con te, effettivamente anch'io sono una di quelle che hanno apprezzato La La Land, e così mi diverte molto questo dividersi come se fosse un affare di vita o di morte. Secondo sì, bellissimo, anch'io sono contentissimo, è l'unico momento in cui il cinema è davvero importante. Perché era tempo che in rete non succedeva questa cosa, cioè sì, succede con Star Wars, ma un film che crea delle polemiche mi diverte molto. Sì, anch'io da morire, vado a trovare mia madre e anche lei con le sue amiche mi chiedono, ma insomma, questo La La Land, sono felicissimo. Fantastico. Ma secondo te Hollywood si rinnamora dei musical? Era già successo, l'hai scritto anche sul blog, che un po' di tempo fa, Chicago, Dreamgirls, Moulin Rouge, secondo te tornano i musical? Sai che secondo me no, perché quando tornarono fu un po' merito di Moulin Rouge che lo rimise in circolo, però tornò un'idea molto banalizzata del musical, perché insomma non è che andarono, a parte Moulin Rouge, non è che andarono molto bene e finì in fretta. Io credo che siamo un po' troppo vicini a quell'epoca perché si rimettano in testa di tornare, poi perché l'esempio di La La Land è molto molto difficile da seguire, per quel che dicevo, perché è vecchio stampo ma molto molto moderno, ha delle musiche originali che Moulin Rouge, come sapete, non aveva, rifaceva cover di grandi canzoni che sono molto ben scritte, tant'è che la colonna sonora va benissimo. Io in primis, cioè la prima cosa che ho fatto è impararle tutte quante a suonare con l'ukulele, pensa te, pensa dove si arriva, no? Cioè, le follie. È bellissimo, per cui... questa immagine per chi ti conosce. Sì, capito. Per cui mi sembra difficile che possa dar vita, per quanto io, se dovessi puntare del denaro, appunto, che porta a casa almeno 7-8 ecco questa 14. Era la mia domanda, perché noi siamo qua tutti, noi che partiamo per Sanremo, voi che partite per Berlino, ma a fine mese ci sono gli Oscar, porta a casa La La Land secondo te? A fine mese tutti a Los Angeles, sì, da più o meno, porta a casa qualcosa? Sì, secondo me almeno più di metà per cui è candidato, perché bene. L'abbiamo imparato che Hollywood gli piace premiare i che raccontano lo spettacolo, il mondo del cinema stesso, per cui viva The Artist, cosa non fece. Esatto, ce la fa. Grazie Gabriele, @ Giniola su Twitter, il suo blog, basta che cercate Sono Vivo e Non Ho Più Paura. Grazie per essere stato con noi, ciao Gabriele, a presto. Ciao Marta. GR24, poi saremo ancora insieme.